Buongiorno. Cittadino italiano, presidente del centro islamico di Viale Jenner a Milano, candidato sindaco a Milano con una lista civica. Come si chiama? Milano Nuova? Milano Nuova, sì. Senta, sa come titola oggi il quotidiano, il giorno, uno quotidiano diffuso a Milano? Il sindaco, sì. Il sindaco di Allah. Sindaco di Allah, vabbè. Noi insistiamo se questa è una lista civica laica, non religiosa, eppure continuano a chiamarci lista islamica, lista di Allah. Comunque, è un pegno che dobbiamo pagare. È un pegno che dovete pagare. Che lista è? C'è una lista civica di... È una lista civica fatta, diciamo, da cittadini milanesi, sia nati a Milano sia nati altrove, e che potrebbe dare la possibilità a tanti, tanti immigrati a Milano, ma anche fuori Milano e altre città, di buttarsi in politica, di integrarsi in maniera completa, non solo nel lavoro, nelle scuole, ma anche nella politica. Nella politica. Perché è un diritto di tutti, rispettando la Costituzione e le leggi, di partecipare alla vita, diciamo, amministrativa delle città. Questo assolutamente. Ci si chiede se lo strumento sia fare una lista di fatto di immigrati, perché qualcuno dice così ci si ghettizza invece che partecipare. No, non è di immigrati, e infatti ieri l'abbiamo provato che ci sono tantissimi italiani con noi, ma questa, diciamo, una sembra una diceria che cerchiamo di sfatare, ma purtroppo non ci riuscite. In ogni caso, è una lista civica. Che cosa a che percentuale puntate? Cioè, intanto voglio dire, lei è il candidato di fatto sindaco di questa lista, no? A che percentuale puntate? La percentuale non ha importanza. L'importanza è quella di spiegare ai ragazzi che vivono da tanti anni nelle varie città, in particolare a Milano, che possono partecipare alla vita, diciamo, della città, anche a quella politica. Senta, io ho visto il simbolo, una cosa che mi ha colpito. Lei dice è una lista laica, però ho visto il simbolo, intanto la sentiamo, forse sta in stazione. Una cosa che mi ha colpito è questa: c'è nel simbolo della lista civica il Duomo. Beh, il Duomo di Milano è il simbolo di Milano per eccellenza. Beh, certo, questo sì. È una costruzione che è durata più di 500 anni e rappresenta, diciamo, l'anima di Milano. Non c'è niente, non ha niente, diciamo, di religioso, è solo un simbolo. Beh sì, di religioso un simbolo lo è, insomma. E questo, però a me ha colpito un po', ha colpito anche i giornali. Lei non colpisce un po' il fatto che lei dice sì, è una lista laica, però lei è il presidente del centro culturale islamico, è inutile negare, c'è anche tutta la polemica sulla moschea, costruire non la moschea a Milano. Ma sì, ma diciamo la rappresentanza di Milano o il Duomo oppure il piscione dei Visconti, perciò io ho scelto il Duomo anche per sfatare quella, diciamo, leggenda che dice che è una lista islamica. Appunto, dice per sfatare questa leggenda che è una lista islamica, voi mettete il Duomo nel simbolo. Nel programma che cosa avete? Mi dica i tre punti principali del programma con il quale si candida a sindaco. Ma il programma è quello di servire la cittadinanza di Milano, per scendere dal fatto che siano italiani immigrati, perciò noi cerchiamo di dare, diciamo, una soluzione a tutti i problemi di Milano, speriamo. Per esempio, il primo cerchiamo qual è? Di fare. Il primo qual è? Il primo di integrare completamente gli immigrati a Milano, quelli che partecipano con il 12% del PIL nazionale, ma non hanno la possibilità né di partecipare alla vita politica, né di avere, diciamo, la cittadinanza per loro, per i figli nati a Milano, il diritto alla cittadinanza. E poi il problema maggiore sarà la scuola, perché lo sentiamo come punto di integrazione. Sì. Saranno il problema delle case, il problema del traffico, tutti i problemi che poi tutti i partiti che vogliono amministrare una città dovranno affrontare. L'ultima domanda: lei è stato chiacchierato anche in passato, per oggi anche il vice sindaco Decorato ha detto ricordo che era legato a Abu Imad, un personaggio abbastanza insomma legato ad ambienti strani nel centro islamico di Viale Jenner. Lei ha qualcosa da dire, di rispondere a questo? Veramente il parere del signor Decorato non è che mi appassiona tanto. Io dico che se c'è qualcosa di illegale oppure di qualcosa contro lo Stato, c'è una legge, c'è il tribunale, ci sono diciamo tutti gli strumenti vari per mettere in posizione di non nuocere chiunque va fuori dalla legge e va fuori dalla Costituzione. Perciò da questo lato sono tranquillo. È tranquillo. La ringrazio, buona giornata e ovviamente in bocca al lupo politicamente per questa lista civica. Abdella Milciari, presidente del Centro Islamico di Viale Jenner, si candida a sindaco per la lista civica Milano Nuova. E allora ci fermiamo, torniamo tra poco, il nostro sondaggio, parliamo di politica, questo fantomatico terzo polo, se c'è o non c'è, questo terzo polo, Fini, Rutelli, Casini, vi convince, secondo voi un'alternativa politica valida? Questo è il tema del nostro sondaggio, perché hanno proposto una mozione, vogliono proporre una mozione di sfiducia al governo e dicono abbiamo i numeri per una nuova maggioranza in Parlamento. Che ne pensate? 800 24 0024 se volete intervenire, se no su radio24.it votate il sondaggio tra poco. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua. Allora, questo terzo polo, di questo ci interroghiamo oggi nel nostro sondaggio. Vi chiediamo: il terzo polo, secondo voi, è una proposta politica credibile? Quella che viene incarnata nei Fini, Rutelli e Casini, che hanno manifestato la volontà di fare una mozione congiunta di sfiducia a Berlusconi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il dato politico è questo: 5 gruppi ieri, Futuro e Libertà, cioè Fini, UDC, API, cioè Rutelli, Liberal Democratici e Movimento per l'Autonomia, cioè Lombardo, più Giorgio Lamalfa, Paolo Guzzanti, si sono messi insieme e dicono vogliamo fare una mozione di sfiducia. Si votasse insieme a PD e Italia dei Valori, tutti insieme, il vice capogruppo di Futura Libertà Italo Bocchino dice siamo a 317 voti, dunque c'è una nuova maggioranza parlamentare. Ovviamente stiamo andando molto avanti nelle ipotesi. Voi pensate che questo terzo polo sia una proposta politica credibile? Questo è il tema del nostro sondaggio, mentre qua cadono le bottiglie d'acqua. Il 64% per ora dice di no. Ne vogliamo parlare con due esponenti politici, l'onorevole Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà. Ben ritrovato, onorevole. Buongiorno. E l'onorevole Silvano Moffa dei Future Libertà, dunque Fignano. Buongiorno onorevole Moffa. Buongiorno. Senta Stracquadagno, questo 317 voti, cos'è, un bluff oppure dovrebbe spaventare voi del Popolo della Libertà? Beh, intanto contiene un'inesattezza, perché nel conteggio è stato calcolato anche il voto del Presidente della Camera, il che non accadrà, perché il Presidente della Camera, pur essendo iscritto a un gruppo parlamentare, nel caso particolare Futuro e Libertà, non vota, e ieri ha fatto presente appunto che non vota. In secondo luogo, questo non è un terzo polo, questo è il novero delle opposizioni, semmai, al governo in questo preciso momento, che comprende tutte le opposizioni uscite dalle urne più un gruppo che è fino a questo momento in maggioranza e che, secondo le dichiarazioni di Italo Bucchino, si candida a uscire dalla maggioranza per unirsi alle opposizioni, quindi non è una proposta politica, è una somma algebrica. È un modo per mettere Berlusconi all'angolo, come dire, vedi che se vuoi ti... Forse infatti la proposta successiva è quella, hai visto che abbiamo i numeri, forse è il caso che ti dimetti prima. E Berlusconi dice no, col cavolo, venite a votare in aula, fa bene? Fa bene, perché se deve esserci... come posso dire, un esito di questo governo che nasce dalla volontà degli elettori del 2008 e rischia di cadere per la volontà di un piccolo gruppo due anni dopo, è bene che questo piccolo gruppo si assuma la sua responsabilità in modo netto e di fronte all'elettorato dica: vedete, noi siamo stati eletti con Berlusconi, ma adesso decretiamo la fine di quell'esperienza. Cioè l'idea è, come diceva ieri il mio amico, il collega Giuseppe Cruciani, al limite si muore politicamente armi in pugno, no? In aula. No, beh, non è così. Ma è una metafora. A Cruciani piacciono le immagini forti. Vabbè, ma politicamente si parla, cioè realtà, si va in aula e si guarda in faccia al nemico. Le proprie responsabilità senza infringimenti. E se l'intenzione degli amici di Futuro di Libertà è mettere fine all'esperienza aperta nel 2008 e poi magari avventurarsi nei terreni del parlamentarismo che non ha alcun, che recide i rapporti con l'elettorato. Dice, se ne assumano una responsabilità. La mia opinione è che nel momento in cui quell'esperienza che è nata nel 2008 dovesse terminare, dato che è stata voluta dagli elettori e agli elettori che si devono trovare. Si deve andare alle urne. Allora, sentiamo Silvano Moffa, Futuro e Libertà, dunque il gruppo di Fini, definito, non so se si vuole cimentare Moffa in questa definizione di colombe, lei è messo tra le colombe, anche tra quelli che dicono, forse, almeno oggi il Corriere la mette a pagina 3, di quelli che potrebbe non votare la sfiducia. Intanto ci chiarisca su questo e ci dica che mossa politica avete fatto. Guardi, intanto smettiamola con questa storia delle colombe, perché per la verità in questo momento vedo molti avvoltoi che si agitano nel cielo, soprattutto nel cielo della tempesta speculativa, quindi bisogna essere molto attenti a quello che si verifica non soltanto all'interno del nostro paese ma anche a livello europeo. Veniamo alla questione centrale. Vede, io credo che sia stato un errore fino ad oggi pensare unicamente alla questione del dato numerico per uscire da questa crisi, che non era una crisi latente ma una crisi profonda della maggioranza, perché il dato numerico, indipendentemente dal 316 o dal 317 che qui è stato richiamato poc'anzi, è un dato che non può fare a meno di quella che è la questione politica fondamentale. E allora è evidente, non sono così ingenuo da pensare che il numero per tenere in piedi la maggioranza non sia un elemento essenziale, però qui dobbiamo capire un passaggio fondamentale rispetto alle questioni che politicamente erano state poste dal Presidente Fini e da Futuro Libertà per un patto di legislatura che fosse riempito di contenuti e quindi consentisse sostanzialmente al governo di rafforzarsi, magari anche allargandosi e quindi allargando l'area del centrodestra, per cercare di costruire quel partito popolare europeo che ancora in Italia non esiste. È il dato di riferimento dal quale bisogna evidentemente partire. A queste proposte, a queste richieste, si è sempre risposto con il silenzio. Credo che la iniziativa di ieri, al di là della prefigurazione di un possibile terzo polo, voglia indicare una strada, la strada maestra del recupero di un confronto politico serio, sì, prima ancora del 14, per verificare le possibilità obiettive e oggettive, se ci sono, di rimettere in piedi un governo forte che sia all'altezza delle sfide di oggi. E quindi ci va a capire anche con la possibilità di arrivare a un Berlusconi bis. Quindi lei dice c'è un margine di ricomposizione, no? C'è un margine di ricomposizione, lei ancora lo vede, cioè da qui al 14, vediamo se queste risposte arrivano, no? Quell'area di responsabilità che in qualche modo è stata definita, quindi non si è parlato di terzo polo ma di area di responsabilità, possa fare da traino per costruire quello che finora non è stato possibile fare. È evidente che questo implica un passo indietro per cercare di costruire quello che serve al paese. Passo indietro, che vuol dire passo indietro? Cioè una dimissioni di Berlusconi e poi magari ragioniamo anche... È evidente che se si dovesse andare, e questo è il problema, finora come dire si è molto giocato sui numeri, si è molto giocato la possibilità di recuperare qualche parlamentare. È esattamente la stessa scena che si è verificata qualche mese fa, quando anche all'interno del PDL si pensava che quattro gatti potessero uscire da quel partito. Io non vorrei che si facesse lo stesso errore, dando peso al dato numerico senza capire che la questione è squisitamente politica. Questo sicuramente un tema, c'è anche una maggioranza maggioranza risicata di 2, 3, 4 votazioni, questo magari poi lo chiederò tra un attimo a Stracquadagno, non è che se uno ha una fiducia con 3 voti, che ne so, o 4 voti, poi può governare in maniera fortissima, perché poi ogni provvedimento va combattuto voto per voto. Però sentiamo che ne pensa qualche ascoltatore intanto su questo terzo polo: Fini, Rutelli, Casini, mettiamo loro tre come i tre più conosciuti dagli italiani. Vi piacciono? Augusto da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, dal mio umile parere, sono una persona normalissima, non sono né politico né altro. Che questa coalizione secondo me non dà assolutamente fiducia, perché ci sono personaggi all'interno che hanno sempre girato un pochino il mondo, non hanno avuto mai delle idee belle, cioè, chiare, con un programma chiaro. Cioè, io prometto che non sono berlusconiano, però Berlusconi ha affrontato un programma, cerca di mantenerlo e dico io lasciamolo lavorare 5 anni e poi alla fine facciamo l'uguale. Se c'è la maggioranza. Comunque grazie Augusto. Giuseppe da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io vedo molto bene questa nuova fase della politica, perché cerca di aggregare un governo possibile di unità nazionale che vada dalla destra alla sinistra possibile e che cerchi di risolvere gli immani problemi che ci sono nel tappeto, i problemi dell'economia, la legge elettorale che bisogna farla nuova, possibilmente. Quindi lei vede bene questo insieme di forze politiche che si mettono insieme per... Proviamo a pensare un po' indietro ad Aldo Moro, al compromesso storico, ad un altro momento in altri termini e in altri tempi di emergenza. Anche allora si tentò di fare qualcosa per uscire dalle crisi. Non è un male che i politici si parlino tutti per il bene della nazione. Male è dividere i politici. Ha fatto una scelta intelligente Fini e i suoi uomini, una scelta coraggiosa. Io non faccio parte di quella squadra. No, vabbè, però questo allora. è il suo parere, Giuseppe. La ringrazio. Voglio andare un attimo dall'onorevole Stracquadagno prima del traffico e poi ci raggiungerà anche Stefano Folli. Onorevole Stracquadagno, una maggioranza risicata di 2 o 3 numeri potrebbe servire? La fiducia con 2, 3, 4, 5, 6 voti basterebbe per governare? Ma lei sa che intanto ci siamo trovati in questa situazione perché è stata proposta una mozione di sfiducia. Certo. Adesso le mozioni di sfiducia sono più di una e che una maggioranza tenta intanto di superare quell'ostacolo e su quella base poi decide come continuare, cioè se è sufficiente la maggioranza che ne scaturisce, se è insufficiente, se si debba tornare agli elettori, se si debba fare dell'altro. Per cui è chiaro che questo è il primo passaggio che non abbiamo chiesto noi. E la questione dei numeri, volevo rispondere a Silvano Moffa, non l'ha posta Berlusconi, non l'ha posta il Popolo Libertà, ieri l'ha posta Italo Bocchino con il suo comunicato. E quindi è da lì che è partita la contesa sulla contabilità. Per il resto è tutto retroscena. È da qualche giorno che si fanno retroscena su pallottolieri, questo vota di qua, questo vota di là. Nessuno di noi ha dichiarato abbiamo tolto, perché non è su quello che si sta lavorando. Si sta quello che deve fare una maggioranza è vedere se alla prova del voto parlamentare è continuare a essere maggioranza. E in quel caso, sulla base di quel dibattito, di quella discussione, prendere le decisioni successive. Il traffico e poi rientriamo. Io sono o blanco o nero. Gris, non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Detto che per il momento il 67% non crede alla possibilità di un terzo polo come novità politica, voglio salutare Stefano Folli. Buongiorno Stefano. Buongiorno, ciao. C'è con noi l'onorevole Stracquadagno, l'onorevole Silvano Moffa, vale a dire un PDLino e un Futuro e Libertà. Intanto Stefano, tu sì, anche nel nostro GR e oggi sul Sole 24 Ore, hai detto siccome si ragiona un po' di numeri, mi sembra un po' che dire 317 voti sia un vendere la pelle dell'orso prima di averlo catturato, anche perché se anche fossero tutti insieme questi 317 voti, il ragionamento politico è: e poi che succede? Che Fini governa col PD, con l'Italia dei Valori, con Casini, cioè dove si va? No, il punto debole di tutti coloro che si stanno presentando queste mozioni è effettivamente quello di non avere una prospettiva per il dopo, cioè se il 14 dicembre si apre la crisi di governo non c'è una idea chiara di quale maggioranza potrà essere messa in campo, se potrà essere messa in campo. E per cui ho scritto anch'io che se fossimo in Germania queste mozioni non avrebbero la possibilità di essere discusse, perché in Germania vige l'istituto della sfiducia costruttiva, no? bisogna proporre contestualmente un'altra maggioranza e un altro governo, e non è questo il caso allo stato delle cose. Si arriverebbe una crisi al buio, una crisi determinata da molti fattori, non ultimo, certo, va detto, c'è in questo momento un indebolimento di Berlusconi, ci sono rivelazioni, c'è un clima così di generale di attigmento e di sospetto che grava, e naturalmente questo è un elemento in più di turbativa, diciamo, di questo scenario politico. Però indubbiamente dire 317 firme non significa che queste firme siano si traducano in voti sostanziali, cioè, all'emozione. L'idea che io mi sono fatto, vorrei però il tuo parere molto più esperto, è che sia un modo per mettere all'angolo Berlusconi, e infatti un secondo dopo queste 317 firme hanno detto sia Casini che Fini: vedi Berlusconi, dimettiti, non andiamo neanche al voto del 14, cioè mi sembra un po' come dire... Il titolo della mia nota di stamattina è quello questo, no? Che queste 317 firme sono uno strumento di pressione su Berlusconi per indurlo alle dimissioni prima del 14. Naturalmente questo non avviene, non ci sono magari che questo possa avvenire, e dimostra in qualche modo che i presentatori della mozione hanno tutta questa sicurezza su questi numeri, tant'è che preferirebbero che Berlusconi, dimettendosi, evitasse questo passaggio parlamentare, che comunque è doloroso, perché significa comunque il governo in un momento comunque difficile del paese. Quindi, per tutta una serie di ragioni, si vorrebbe che Berlusconi operasse con le dimissioni per consentire l'apertura di una fase di negoziato, di trattativa politica. Questo però non mi sembra che sia in questo momento realistico. Onorevole Silvano Moffa, voi avete paura dell'eventuale chiamata alle urne? Perché ha sentito Stracquadagno, dice: il voto degli elettori era questo, se cade questo governo si dovrebbe, poi decide chiaramente tutto Napolitano, Costituzione alla mano, eccetera, il passaggio che sappiamo, si dovrebbe andare alle urne. Questa è la risposta politica. Ma guardi, il problema non è posto in questi termini, vuol dire poco. Il problema non è aver paura delle urne, il problema è capire se oggi il paese è in condizione di poter assistere a delle elezioni anticipate, se le elezioni anticipate costituiscono la soluzione del problema, o se invece le elezioni anticipate, in una situazione molto difficile, molto complessa, soprattutto per il rischio di instabilità e per il rischio di tempeste finanziarie che si agitano nei cieli di Europa, siano la soluzione migliore. Mi sembra di capire da parte di tutti gli osservatori, e non solo, ma anche da quello che in Parlamento normalmente si dice tra i deputati, che c'è una grande preoccupazione per il paese. Io sono tra quelli che teme fortemente le elezioni, un ricorso anticipato alle urne, diciamo, proprio per il quadro economico nel quale noi stiamo. Ecco, allora, perché si chiede un governo più forte, più solido, capace di fare quelle riforme strutturali che tutti oggi chiedono per uscire dalla crisi, a partire dalle parti industriali. Però lei dice anche un Berlusconi bis, non l'ha escluso, dice non esclude anche un Berlusconi bis. Insomma, penso assolutamente che nello scenario del post 14, ma mi auguro che questo, come diceva Folli poco fa, anche se in qualche misura ritiene molto ridotta questa possibilità, ci possa invece essere la capacità di recuperare quel senso di responsabilità collettivo che in questo momento è mancato, per cercare di mettere in piedi una trattativa vera che aiuti il paese ad uscire dalla crisi, e che quindi in questa trattativa non vedo perché non ci possa essere un Berlusconi bis. In fondo è un colpo d'ala che è stato chiesto al Presidente del Consiglio fin da Bastia Umbria, anche no, prima. No, ma infatti vediamo. Onorevole Stracquadagno, le chiedo, le voci che ci sono, le voci. Adesso non mettiamola solo come voci, sono cablo dell'ambasciata, dell'ex ambasciatore americano a Washington, nel quale si fanno dei nomi e si dice che Gianni Letta e l'onorevole Giampiero Cantoni, cioè due persone molto molto vicine a Berlusconi, avrebbero fatto dei riferimenti alla salute del premier, al fatto che è stanco, alle feste, alle cose che già sappiamo. È un premier indebolito. È un onorevole Straguadagno, non è una cosa che si può sottovalutare così, o sì? È gossip? Le due personalità chiamate in causa hanno detto che di non aver riferito quelle parole. E vabbè, allora l'ambasciata americana mente, non so. Può esserci anche un difetto nel sistema di reporting, ossia che qualcuno ha riferito che i due avrebbero detto, perché guardi che nella raccolta le informazioni di questo tipo spesso ci sono, come dire, dei molti si dice, delle voci, delle cose. A me capita di parlare con rappresentanti della diplomazia dei paesi alleati e spesso sento che mi chiedono verifica di qualcosa che hanno ascoltato di seconda o di terza mano, e quindi il sistema di reporting non sempre è così affidabile. Ma detto questo, volevo notare due cose sulle parole di Moffa. La prima è che neanche lui credo nel Terzo Polo, ha parlato di Partito Popolare Europeo, e il Partito Popolare Europeo è esattamente quello che noi incarniamo nel Popolo della Libertà. È ovvio che vi aderiscono poi anche gli esponenti di Futuro Libertà, che vi sono entrati per il tramite dell'alleanza di Forza Italia e l'UDC. E la seconda è che se uno teme l'instabilità non firma una mozione di sfiducia. C'è un po' di contraddizione in queste parole, perché non c'è modo migliore per determinare di fare una sfiducia che quella di far cadere il governo che si è contribuito a far nascere. In ogni caso, io qui mi devo fermare, ma non ci fermiamo noi, perché do la palla a Oscar Giannino, che prosegue su questa situazione politica davvero di incertezza, ecco, almeno fatemi passare questo termine un po' democristiano, eufemistico, incertezza. E allora Oscar Giannino, anche lui si occupa di questo Terzo Polo, si occupa di quella della situazione di un passo dalla crisi, o chissà. Io ringrazio l'onorevole Straguadagno del Popolo della Libertà, l'onorevole Moffa di Futura Libertà, il nostro Stefano Folli. Che dire, oggi saluto sia Antonella Migliaccio che anche Alessandro Longoni, redazione sempre più grande, Carmelo Lauricella in regia, novità, e va bene. Intanto ci godiamo un bel weekend e poi ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:20.